Pensavo che sta cosa della radio, col fatto del buco, cioè era scavallata nelle nostre menti, non fosse più Quale una buco? cosa. Siamo così tanto sul pezzo invece. Siamo in diretta. Oh mio Da Dio! dove siete entrati? Ero solo prima. Eravamo qui. Oh cazzo! Sento niente. Temi che non meriti, che non sono più quelli che già ci vedete. Si nutrono della paura della gente, senza terra d'argento, la musica si riprende. E di nuovo in diretta, a dispetto di tutte le aspettative, su Radio Forte 100 celle Avengers. Oggi sabato 20 gennaio 2024, sono emozionato e cioè, non posso che dire. Lo ripeto. Eravamo rimasti. Ma questa è una citazione che ovviamente colgono soltanto i più, diciamo, attempatoni. E lasceremo quindi il quizzone. Franci, neanche te? Vabbè, niente, quindi passo dove eravamo. Grazie. Dove eravamo Dai, rimasti? Sono frizzata, mi posso sciogliere, sono tipo bloccata, mi posso sciogliere. Sono stata Sciogliamoci. ibernata in questo Noi siamo periodo. rimasti qui, infatti. E Eravamo quindi negli angoli del forte, nascosti, capito? eravamo rimasti. Eravamo rimasti che Eravamo dovevamo rimasti, faceva salutare alla caldo. mia destra, come si faceva anche nel 2023, Betta la console. Proprio, applauso Buonasera, per il 2023. Vabbè, applausi stringati. Adesso invece è il turno di Virginia. Assolutamente senza la solita ansia. Ciao! Applausi Ciao stringati Virgi. anche per Virginia, ma abbiamo la... Spogliamoci però. Scusate, lasciamo un po' di coda in più. Abbiamo la giornalista faziosissima Gabri Grubri. Buonasera, Ciao, Gabri. Dal nome Con tutte le impronunciabile. vocali chiuse. Letterata della nostra redazione, la professoressa maestra Viola. Faccio un inchino Si anche sta se non mi inchinando per chi non la potesse La vedere. riverenza, così. Buonasera a tutti, che bello. And finally, the beautiful mind in the retrovia of redazione Come liberi di una Franci. volta, dietro la difesa spaziale, Col microfono in mano, voi non potete vedere, ma è proprio un performer, un È già la performer. seconda volta che fai questo riferimento calcistico, comunque è bello perché comunque non sei uno di quei soliti matematici che pensano solo alla matematica, ma anche al calcio. Anche alle tattiche del Il calcio, nostro mediano, esatto. no, libero, hai detto, libero, libero. Cagnaccio della difesa, Un anche uomo detto. dalle mille risorse. Bene, quindi ci siamo tutti, non è vero, almeno una volta all'anno, perché poi non ti scordi per tutto l'anno. Salutiamo Iron Man. Oh, lo so, grande. Iron Man, ti ho salutato, non ci crederai. Era per essere Non gentili capisci. nei tuoi confronti, Chiedo non scusa. dimenticarci che ti abbiamo rubato il brand, che Cosa? comunque siamo i 100 celle Avengers e tu sei ancora uno di noi, così come Alexa. Sì. Vabbè, non ridi. Risata. Oh, che ridere. Come diceva Bella. uno, basta che non ridi. Però siamo contenti di avere anche te in questo inizio di anno arrembante, pieno, devo dire, di notizie, così, di novità, Bello vedere che rubriche vecchie e alcune cose nuove, contenuti che se ne vanno come il pane. E quindi, niente, nonostante tutta questa arrembanza e velocità, noi partiamo un po' lenti con Ti questa butti canzone. sempre No, giù. non dire così. Partiamo con questo pezzo che di solito io vi metto il pezzo up per cominciare la puntata, invece ve la comincio così perché va così. También los niños fueron homenajeados por Yupanqui, aunque la canción no la compuso él, es una canción antillana recopilada por Atahualpa Yupanqui. Nosotros agradecemos esta recopilación, este encuentro con esta canción. Muchos niños en América Latina fueron acunados con esta canción, niños que ahora son adolescentes, son gente que aman esta canción y algunos que siguen acunando a sus niños con esta bellísima canción que se llama Duerme Negrito. Duerme, duerme. que tu mamá está en el campo móvil, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Oh, ari, ai, oh, oba, oba, oba. Radio Forte, libera autogestita, questa cento c'è la legge, se uscirono finale. Ovarai, ovarai, ovarai, ovarai, ovarai. E sempre in diretta su Radio Forte, 100 celle Avengers, in questo reincomincio dell'anno, si dice proprio così, me lo ricordo. Il reincomincio. Il reincomincio, reincomincia bene chi reincomincia subito, così me la ricordavo diversa. E spazio attualità impossibile da affrontare, un mondo che abbiamo trovato cambiato, poi cioè, non andando in onda dal primo luglio. E la Peppa. Luglio, quante cose che ti voglio, 2023. Quante potrebbero essere le cose su cui soffermarsi o su cui diciamo tante. Rimuginare? Tante. Molte. Forse io c'è una cosa che non cambia, scusami, il prego. Clima qua dentro. Sempre per creare hype. Il clima, sì, meteorologico. Fuori c'erano circa 40 gradi. Qua in radio c'è sempre quel freschetto d'estate d'inverno. Io oggi c'avevo freddo pure fuori, quindi sarà che peccato che non sarà c'è che gennaio. Peccato che non c'è Giorgi, esatto, a darci dei dettagli maggiori. Mi avevo detto sul clima, però grazie Gabri comunque ci ascolta, per aver informato tutti del fatto che il Forte è una grande cantina. E Dicevi, scusa. Niente, no, dicevo tante cose che quest'anno sono cambiate. Io mi attacco a una che non conta niente, che però mi ha musicalmente, che qua si parla sempre di musica. mi guardi, la sto prendendo leggermente larga, no, ma leggermente. Del resto non sono un po' emozionato. No, beh, allora, cose che mi sono cambiate quest'anno, comunque a cavallo fra il 23 e il 24. Allora, hanno cominciato a girare delle versioni tipo su Ano Bar delle canzoni a noi note che ci piacciono. E quindi c'è tutto un senso di lentezza. Che sei si... virale, faccio un esempio, maestro. Faccio un esempio. Vabbè, questa in realtà poi era già lenta di suo, non è che l'hanno decelerata proprio tanto. Però tendenze musicali pubblicitarie, ovviamente del 23-24. Questa era Oh my mind, it's my mind. Where is my mind? Brava Virgi, applauso Virgi. Zero. Applauso stringato, no, applauso lungo. Lungo. Vabbè, altro esempio, proprio perché è Virgi, allora andiamo su Virgi. Se lo meritavano questo? Vabbè, è carina. Suono Bar l'avrebbe fatto così. Sì. Cioè, cosa vogliono dirci? Questo anno comincia... Prendetevela con calma. Esatto, calma, è tutto 2024, a posto, non succede niente non di rilevante. Non dovete correre. Andiamo avanti, andiamo avete avanti. Un giorno in più. Ecco, bravo. Franci, che hai parlato, perché andiamo su di te. Aia. Non so perché tu sei sempre il metallaro matematico del gruppo. E hanno fatto anche questo. Non la riconosci? Alza, becca, alza, alza, alza. Dai, la canzone Marco Masini. È Trottolino amoroso. Oh mio Dio. Ma è arrivata, esatto, adesso. Questa pubblicità da Renault, Franci, ma te veramente la televisione niente. Cioè, non la canzone, la pubblicità ti cita. Cioè, quasi quasi ci vado lungo per sentirla di più. Ero rimasto a David Bowie, no? Ai profumi. Emozionati. Niente, non arriva mai. Ok, arriva. Ma quanti dindi? Non ti possono vedere se quanti fai così. Dindi ha preso James Hetfield? Va bene. E mamma mia, i sordi veri. Per concludere, andiamo verso l'universo femminile. Con questo sottofondo femminile, che io mi sposto di tematica con un gancio che non c'è, perché è un gancio difficile, difficoltoso. Questa la conosce. Questa comunque la conoscerate, vero? Ok, sì. Sempre versione lenta, perché l'importante adesso nella vita è prendere tutto con lentezza, tutto con assoluta serenità, finché la lascio lunga. No, niente, quando uno c'ha troppa roba da dire, poi non riesce a dire. Sono pianti di bambini quelli. Tocchiamolo l'argomento, va. Diciamolo che questa redazione cresce, cresce. Che sottofondo avremo per questo? Se non vado errato, entriamo proprio nella... Va bene, scusami. Annunciazione, ma non ce l'abbiamo. Quando a un certo punto dalla lentezza ti arriva un allarme. Ah, ecco. Oh, un'ora per trovare questo allarme. Chi va là? Chi mi va là? In ansia. Lo so, lo so. Non avevo niente, ti avevo detto, amore, ho un sottofondo. No, non te l'avevo allora, detto. Signore e signori, proprio perché Radio Forte, 100 Celle Avengers in particolare, non è affatto una radio autoreferenziale, come suggerisce questo noto brano che stiamo ascoltando. Madonna, che hype! No, ragazzi, io non lo dirò veramente. Perché autoreferenziali sì, ma insomma. Vabbè, fallo che... Prego. No, prego. Raga. No, vabbè. Allora, i due... Allora, vabbè. Vai, Viola. Dico io, vai. Viola. Allora, il caro maestro Daniele, che stava parlando prima, ragazzi, e la qui Gabri Grubri ci regalerà... Hai detto la. La qui, cara... No, niente, no. Niente, scusa. Gabri Grubri ci regaleranno un pargolo. Un pargolo al forte. Un bel pargoletto. Vediamo l'ora, sarà la nostra mascotte. Meno male che l'avete annunciato voi due senza nessun ansia. Grazie, esatto, maestra Viola. Grazie per aver rotto. Figurate, ragazzi. Era importante. È una cosa bellissima. Che fosse un esponente della scuola, comunque sì, a parlare di bambini e non noi, sì, che esatto, ancora non ne sappiamo nulla. Si è acceso il guanto per l'occasione, da solo, tra l'altro. Avevamo chiesto a Ivana Spagna direttamente di presenziare, ma ecco, grazie, Viola. Ma presto ne sapremo, presto ne sapremo di più. Dopo questa colonna sonora ci sarà la gara a chi vorrà fare il babbuino tra di noi, cioè chi lo alza, che è la parte più bella, è lo scimpanzé, non so chi lo vuole fare, chi lo vuole fare, mi sa te, quello saggio devo colorarmi, ok, okay, il va bene, vado subito. Quindi vi terremo aggiornati, insomma, ecco. E come se lo faremo, noi siamo in grado con i mezzi di oggi ovviamente di vivere questa esperienza a 360 gradi, no, 720. Perché nel mondo delle ecografie facili, noi oggi a Radio Forte, 100 Celle Avengers, abbiamo il collegamento più profondo del mondo. Ce l'abbiamo fatta. Wow. Io ho alzato, Sono emozionato. Il collegamento direttamente col pancione. Eccolo, è lui. Puoi sentirmi, Filippo? Puoi sentirmi? Sì, padre. No, non era lui. bassissimo. Ha la voce più profonda della sua maestra. Neanche è nato, questo già sta in radio. Allora, siccome non credo che, cioè, non è detto che io arrivi alla fine di questa esperienza vivo, cioè, la radio sarà anche da questo momento in poi, diciamo, testimone per Filippo di tutto ciò che è opportuno fare e non fare nella vita. Bello, abbiamo preso il ritornello. Benvenuto Filippo della redazione di Cento Gelamente. Mi serviva solo l'applausone. Ecco il babbuino. È arrivato un babbuino, è vero. Bene, bene. Si riempie di babbuini, la redazione. No, scusa Betta, hai ragione, ce l'ho io lo sfumino. Mi sono fatto lo sfumino personale. Poi puoi tenere alto. Fosse un babbuino, grande. Non so che roba fosse. E quindi io mi sono un po' smarrito proprio. Sfumiamo anche il collegamento più profondo del mondo. A questo dalla punto pancia, questa donna, nonostante gli impegni, ha anche un lavoro, una rubrica da portare avanti. E noi ci siamo presi già dello spazio così indebitamente. Torniamo col sottofondo istituzionale, abbassiamo Filippo, stacca il jack di Filippo. Oddio, non gli fare male. Ok. Oh, poverino. Non ha sentito niente. Molto bene. Ma dove era emozionato? Betta, per favore, già è difficile. L'hai detto così, scusa, era servita. Hai ragione, hai ragione. Comunque, era un altro momento anche da vivere questo, no? Non c'era un passaggio... ah, è vero, ecco cosa c'era. C'era un passaggio musicale per darti il tempo di recuperare l'emozione. Sì, di riprendere fiato. E colgo l'occasione quindi per dedicarla ovviamente ai miei due suoceri. In particolare a mia suocera che me l'ha, diciamo, involontariamente consigliata questa canzone perché... quando ci è venuta a trovare di recente la canticchiava così, come se nulla fosse, cioè come se non fosse, cioè poi diceva la vita è un musical, veramente in quei momenti sembrava un musical. E ovviamente mo ci mettono da trovarla, però intanto salutiamo uno dal intanto la suocera, salutiamo Silvana, salutiamo. E Angelo, e ascoltiamo Ligabue a modo tuo. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu, tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te. Ogni compleanno vai un po' più via da me. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Sarà difficile da dietro sulla strada che imboccherai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai. Sarà difficile mentre piano ti allontanerai a cercare da sola quella che sarai. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. A modo tuo vedrai, a modo tenere un pezzetto per me. E nel bel mezzo del tuo giro tondo non poterti proteggere sarà difficile, ma sarà fin troppo semplice. Mentre tu ti giri e continui a ridere. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. A modo tuo vedrai, a modo tuo dondolerai, salterai. Cambierai sempre a modo tuo. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, recuperato, fiato e passata la parentesi, la nostra giornalista faziosa Gabri Grubbi è pronta su. Eccoci qui, sul siamo pezzo. Tornati senza indugi. Senza indugi. Questo è carino, senza indugi. Sempre perché abbiamo detto che il 2024 è all'insegna della lentezza, della calma, e allora io con calma ti chiederei di di mandarmi la sigla di Cigni di Balacà. Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balacà? Sempre bella questa sigla. Ma quanto sigla. Ci mancava la sigla di cigni? Ah, tantissimo. Molto. Quindi a Cigni di Balacà, bentornate e bentornati. E a noi l'onere, quindi di, e l'onore di introdurre la prima puntata del 2024 di 100 Celle Avengers. E come di consueto iniziamo con una puntata tutta dedicata, già ai casi di plagio, per quello avremo tempo, avremo tutto un anno. Ah, ma perché si occupa di casi di plagio Cigni di Balacà? Sì, da quanto tempo avremo? Ha chiesto Filippo, scusa. Ah, scusa Filippo, è vero, non devo dare per scontato, già mai, ora a maggior ragione, e si occupa di diritti d'autore. Sì. Già mai. Ma questa volta parliamo di pubblico dominio. Ebbene sì, iniziamo, chiaramente l'inizio dell'anno chiama pubblico dominio. L'abbiamo fatto anche negli anni passati, vi ricorderete, basta andare basterà andare ad ascoltare le puntate di gennaio 2023 e 2022 e così via. Per sapere che noi appunto all'inizio dell'anno parliamo sempre di pubblico dominio, che è un po' quel rimando appunto all'idea di libertà, che forse sta anche un po' all'opposto del concetto di diritto d'autore. Sulle definizioni io non mi dilungherei troppo perché ne abbiamo appunto parlato tanto nel corso di questi anni di radio, ma il diritto d'autore lo sappiamo, quindi quella forma giuridica di protezione delle opere dell'ingegno, e quindi una forma di esclusiva su quelle opere. In altre parole, l'autore crea una certa opera, caro Filippo, e automaticamente diviene esclusivo utilizzatore della propria opera. Cioè io la faccio, io la uso, e tu, se io non ti autorizzo ad usarla, t'attacchi. Non la puoi usare. Cominciamo senza turpiloquio. Almeno fino a quando appunto l'opera non diventa libera e universalmente utilizzabile da chiunque. E posso dire che accade. Libera è il nuovo numeri. Libera? L'ho detto con troppe B. Dici? Lo so, ormai. No. Oggi c'è un ci teniamo a certe cose. Scusa, Franci. C'è un campo minato, te lo dico, proprio. È libera e. E quindi dicevo che accade all'inizio di tutti gli anni che appunto a gennaio facciamo un po' la conta delle opere che cadono in pubblico dominio. Oh bene, quindi entriamo nel vivo dell'argomento e ci sfreghiamo le mani perché possiamo farne l'uso che vogliamo, appropriarcene. Esatto, sblocco personaggio. Che succede nel 2024? Come lo dobbiamo fare questo conteggio? Orbene, sappiamo anche questo, si fa proprio partendo dai famigerati morti del 1953. Da, da, da. E perché? Perché la durata del diritto d'autore appunto è quella di 70 anni, dura per tutta la vita dell'autore e per i 70 anni oltre la morte dell'autore. Quindi ci basterà aprire la nostra bella pagina su Wikipedia, andiamo a cercare morti del 1953, ecco lì che si apre una sequela di una sequenza di nomi dei più variegati, e se fra questi appunto peschiamo qualche artista, letterato, scrittore, sapremo che di quell'autore le sue possiamo fare scempio. Ecco, io quest'anno l'ho fatto come di consueto, appunto, maestro, tu hai assistito alla ricerca e i nomi quest'anno, insomma, lo confesso subito, diciamo, non è che è stata proprio questa ricca pesca, perché scherzi. Mi è saltato all'occhio Guccio Gucci. Beh. Applausi a Guccio Gucci. Guccio Gucci, ma dei Gucci. Sì. No, scusate, è proprio lui. Il nonno, no, proprio il fondatore della casa famosa, casa di moda, esatto, povero dell'azienda. Avremo una rubrica crime. Che poi ha fatto una finaccia, se vedete House of Gucci, io l'ho visto anche di recente, è molto bello. Betta, ti lancio pure questo. Ma non è la Gucci. E anche l'ho visto anch'io. Era già un figlio dei figli. Sì, il film poi è incentrato su uno dei degli eredi, chiaramente. Beh, insomma, una vicenda familiare abbastanza intricata. Ma uno meglio. Poiché non mi convinceva molto, siamo andati avanti nella ricerca e attenzione, è uscito questo nome famosissimo, Gino Simi, niente meno, il grandissimo. Applauso anche a Gino Simi, per favore, no, l'altro tasto. Sono state concentrati, ragazzi. Vi paghiamo, eh? Nato nel 1890, non ci interroga. È morto il 21 dicembre del 53. È stato un musicista e compositore italiano. Probabilmente i più attempati ricorderanno. E lui è autore di varie canzonette, soprattutto in dialetto romanesco. E uno dei suoi maggiori successi degli anni 30 è la canzone che adesso il maestro ci favorisce, è proprio questa. La qualità è altissima del reperto. Eh sì, perché comunque è stata proprio composta appunto negli anni 30. Ma pure registrata veramente. Direi. Senti che robetto. Com'è bello fa l'amore quando è sera. Beh, però, Bravo Gino, bravo. A distanza di 70 anni dalla tua morte. Famo come ce parla. Faremo la famassaggio. Grazie la Gino. devi prendere un mandolino, maestro, al posto. Sappiate che l'ha interpretata anche Anna Magnani, evidentemente autorizzata dal suo pagando. Autore. Invece noi. Evidentemente pagando. No, gli è gratis. Possiamo farlo gratis. Bene, ecco. E quindi diciamo che devo dire che il diritto d'autore nostrano in questo 2024, confesso che non ci ha regalato grandi emozioni. Invece passiamo a quello che è stato il grande brivido di quest'anno, che non ce lo regala appunto l'Italia, l'Europa, bensì gli States. E invece, infatti, dalle Americhe che ci arriva la grande rivelazione di quest'anno, l'opera caduta in pubblico dominio di cui tutti parlano, e con regole un pochino diverse. Apro questa breve parentesi: non si guarda alla morte dell'autore, l'abbiamo detto, ridetto tutte le volte, ma il conteggio è diverso. Il diritto d'autore scade dopo 95 anni dalla pubblicazione dell'opera. E che ti è andata a scadere quest'anno come opera pubblicata nel 1928? Fantaghirò. Con lei che tutti colui che tutti aspettavano, in pratica. Il grande mangiatore, ragazzi, di miele. Signore e signori, no, Winnie the Pooh ne abbiamo già parlato. Quest'anno è toccata a Topolino, signore e signori. Applausi. Topolino va in PD, va in pubblico dominio. Io l'avevo detto non dirla così e lei niente, in fissa. Mi è piaciuta. Cioè, già il PD sta messo malissimo. Com'è, così la affossi. Dopo Mengoni, Britti, ecco, Topolino va in PD. Ma che ci mancano i personaggi al PD, è quello infatti, è vero, vero. Avremo una manifestazione. Però sicuramente acquisirebbe più credibilità. Però sarebbe il personaggio più plausibile all'interno del... Sì. Scusate, io vorrei annunciare ad Iron Man che lo possiamo anche licenziare, perché da quest'anno parte che c'aveva Topolino. No, facciamo prendere un coccolone. Ma costa Iron Man? Oh, ma quando scade Iron Povero Man? Povero Iron. Ah, ecco, questa è una bella domanda, Betta. Andiamo subito a cercare. Ecco, mo' sei distratto. Cioè, tutti. Secondo me adesso no, si no, andiamo subito a cercare che... No, perché avevo letto qualcosa, ma a proposito di Batman. Ma ne parliamo la prossima volta. Adesso rimaniamo sul pezzo. Pezzo, dicevo, appunto, sul quale eravamo già, perché ci avevi già parlato di questa cosa, la legge prolungata apposta per fare un po' più di soldi su Topolino. Il Mickey Mouse Act del 1998, mi pare. Bravo maestro, ti ricordi bene, perché ne avevamo parlato, la Walt Disney, che è giusto, insomma, una lobby piccoletta così, non... poco potere di niente. Ha fatto sì che la durata del diritto d'autore sulle opere in America venisse prolungata di 20 anni, quindi siamo passati da 75 a 95 anni, e l'ho fatto proprio perché, insomma, per prevenire questo momento, cioè, insomma, sapeva che prima o poi Topolino sarebbe caduto in pubblico dominio. Ahimè, ma ho una domanda. 20 anni dopo è successo. Anch'io. Prego. La mia prima domanda è, cioè la mia unica domanda, quindi adesso teoricamente Topolino può andare su Netflix. Aspetta, cara Virgi, perché c'è un però. C'è un però. Non stiamo parlando del Topolino che conosciamo oggi. Ecco, perché la notizia è ghiotta e sicuramente rivoluzionaria, ma nei limiti dell'opera del 1928, che è quel famoso, ricorderete tutti, il primissimo Topolino immortalato in Steamboat Willie, okay. Ossia quell'immagine del battello a vapore che adesso, grazie ai suoni, esatto, sempre di qualità, ci riecheggiano quelle immagini. Senti com'è libero. Senti com'è libero. Vaporetto fichetto. Oddio, che cosa ha tirato fuori. Quindi alla tua domanda, la risposta in effetti è questa: quello che è libero è quel Topolino. Solo quello. Quindi quell'immagine. Cioè, solo quello in bianco e nero, sì, che non si riconosce. Sì, no, è bello quello, dai. È bello. A me, cioè, è molto vintage. Anche il motivetto. Sì, sì, sì. Tutto quello che riguarda, diciamo, che abbiamo visto in quell'episodio, che poi io ho visto per la prima volta, lo confesso, proprio ora, dovendo preparare questa puntata, non l'avevo mai visto per intero. Perché chiaramente è già libero su YouTube. Allora, certo, è vero che Walt Disney l'aveva già caricato, perché insomma poteva disporne come voleva, quindi l'aveva già messo. Però adesso, ecco, è liberamente riproducibile da chiunque su qualsiasi piattaforma. Andate a vedere Steamboat Willie e usatelo. E usatelo soprattutto. E quindi, a margine, diciamo, di questa storiella, sempre per andare intanto verso la conclusione, volevo dire che io mi sono anche un po' indignata. La giornalista, ecco, che prende posizione. Perché uno dice, beh, allora, Topolino è libero, abbiamo visto questa versione di Topolino, il primissimo, quindi Topolino che fischiettava sul battello a vapore, e che è successo? Che a nemmeno 12 ore dal suo arrivo nel pubblico dominio, il Topolino di Steamboat Willie è già diventato l'assassino di un film horror. C'è! E la nemesi di un videogioco survival horror. Mamma mia. Pensa quanto lo aspettavano. Cioè, quindi tutti, proprio uso distorto, ma con il corpo ancora caldo, come dicevamo oggi con il maestro. Così. Però questo è spoiler adesso, sapendo che ci sarà un film dove l'assassino è Topolino, cioè altro che Scream. È spoiler. Si mette la maschera, esce fuori, se leva la maschera, sì, è sempre Topolino. Infatti non so quale sarà il colpo di scena, se saranno inventati qualcosa, non lo so. Guardiamo, lo vedremo. Va bene. Organizziamo una serata. Cinema di redazione. Esatto. Ma da 1 a 10 la Disney quanto è incazzata? Ma poco ci può fare. A me diciamo sembra più Gabby, perché io sono incazzata, perché comunque è un, voglio dire, ferita, uno snaturamento grottesco di un'icona della cultura popolare. Non, cioè, non lo so, non voglio essere troppo radicata. Ma posso dire che ai tradizionalismi, un po' però sulle palle a tutti. Certo. Sì, beh, meglio Paperino, ma scherziamo. È più simpatico Paperino, dai. Non è vero. A parte che questa sia una... Poi, vabbè, non è la prima volta che Gabri si trova proprio durante la rubrica Cinghi Balagà a difendere i diritti di gente che non ha bisogno, diciamo, di essere difesa. Quindi, perché poi la adesso Disney è incinta, quindi non la posso buone contraddire a prescindere. Perché lei difende la legge. Tuttavia, mentre parlavamo, cioè, incredibile, e la gente comunque è stimolata, perché oggi sono tanti gli ascoltatori, sul canale Telegram che Gabri non ha segnalato, sul nostro Telegram canale, 100 celle Avengers, anzi Radio Forte 100 celle Avengers, la gente così, sto facendo così con la mano, la gente così, cioè, sì, ha mandato contributi tra cui appunto per farti capire l'aria che tira, che nulla che ti indigni. Ah, ecco. C'è cioè una band che si a era proposito proposta, di usi in realtà, distorti. Dicono scusate, non abbiamo fatto in tempo, volevamo proporre questo per la sigla di Morti del 53. Vabbè, comunque questo gruppo anonimo, adesso cercherò il nome, li contatteremo. Sì, li vogliamo ascoltare? Tu stai provando a farmi incazzare, io lo so. Ma io mai, comunque questa è soltanto una gratificazione per la tua rubrica che è ascoltata al povero punto Mickey Mouse. Che la gente incide cose. Sai quest'anno nella lista funebre chi c'è? Dai da te, no! Superman, no! Indovina un po', chi è l'amico delle guardie che festeggerei, anche se lui non è del 53. E questo era veramente i puntini sulle i, che è vero, Topolino era ti amico, butti sempre giù, era il classico amico delle guardie. Ma la batteria c'era un certo Logan. C'era un certo Logan, che ringraziamo e salutiamo perché ci segue da casa. Bravissimo. Sì, Topolino era amico delle guardie. Mi dispiace, ma questa è una verità che tutti più o meno conoscevano. Amico del passo. Sai, cioè non sai mai se ti puoi fidare, capito? Fino in fondo. No, non ti puoi fidare. No. Assolutamente. Topolino. Vabbè, per carità. Ma Topolino ti manda bevuta con niente. Mi state dicendo che hanno fatto bene a farne un videogioco horror, un film horror. E una canzone punk. Era una canzone punk. Però attenzione. Questo Topolino, non so se è questo libero. Non è sbloccato, io dovevo fare col motivo di, cioè, il gruppo scusate, adesso ragazzi a casa dovete usare il motivo di Steamboat Willie, quello lì, e lo fate punk. Questo qua ancora non si può fare, quindi scusate pubblico se l'abbiamo mandato, pagheremo adesso la penale alla Walt Disney. Ma Gabby, per pagare altre penali abbiamo un pezzo anche per chiudere questa rubrica. Sì, abbiamo un pezzo dopo che appunto abbiamo sorinato calma, questa tanto io non lo trovo. Continueremo a parlarne, ovviamente non finisce qui, anche perché dopo questo non finisce qui. Attenzione. Questa è una minaccia. No, non so cosa di peggio potranno inventarsi le genti a proposito di Topolino. Comunque vi terremo aggiornate. Intanto, se il pezzo è pronto, e proprio perché mi sono indignata, c'è qui con noi Neffa che ci ricorda che in fondo è molto meglio stare calmi. Devi stare molto calmo, Neffa. Stai ascoltando Radio Forte e questo è 100 Celle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. 100 Celle Avengers, la musica si difende. E sempre in diretta con questo sottofondo che betta, te volevo dire, mi diventa più a schiaffo, a schiaffone. A schiaffone proprio? Proprio a schiaffone. Ma io delicata, piano piano. Ma noi siamo una radio dinamica, cioè nel senso andiamo lenti, dobbiamo stare molto calmi, però sta cosa del rientro, non ci piace, perché è già daggerata, no? Spieghiamo cos'è il dagger. È il compressore che abbassa la voce, io lo so. Rompo perché prendevo tempo, perché la redazione non è ancora in formazione, e quando non siamo in formazione mi agito. Perché e soprattutto non siamo in formazione, spiegamolo. C'è il Machine Boo che si deve mettere in postazione. Con la si è seduta, non so se avete sentito che si è seduta Gabri. E stavi per dire la Gabri dopo Machine Boo, vero? No, cartoon shaming è proprio. No, perché quello che in realtà succede in redazione è che, siccome siamo delle brave persone e abbiamo un pargolo che sta per arrivare, non si fuma più. E quindi durante i pezzi il segreto è che scappano tutti fuori. Se c'è una cosa che può veramente mettere a dura prova 100 Celle Avengers, è questo fatto che non si fuma più durante la puntata. Però ci sono le scale da fare ogni volta, quindi capito, c'è tanta roba comunque. Quindi tutti fumando e poi aerobico. Fiatone. Aerobico step. Però bisogna dire che bimbi. Chi doveva essere in posizione lo era già. Tutti carichi. Non stavo parlando di te. Vabbè, tutti carichi, ho detto. Stavo parlando di te. Vabbè, e quindi io cedo la parola a Virgi. Ciao Virgi. Cazzo. Grazie. Bentornati. Allora, stiamo per andare a parlare del gruppo più amato da questa redazione, da tutti quanti, vero? Sì. Bene, un po' più convinti. Maestro, che dice? Sto cercando la sigla. Ah, quindi devo parlare un pochino. Ok, no. L'hai trovata. Perfetto. Quindi, niente, stiamo per andare a bomba su Più Famosi di Gesù. Sigla. Buongiorno John, disse amico Paul, lo gireremo il mondo con il pop. A quel punto Paul disse non lo so, Ringo, Paul e George, non capite che presto certamente noi saremo più famosi di Gesù. Più famosi di Gesù. A schiaffo. È un po' ritardato, ma a schiaffo. Esatto, un po' più. Vai. Vado. E bentornati su una rubrica che non prendevamo veramente da tantissimo tempo. Altro che primo luglio, era il primo luglio, l'ultima puntata. Vabbè, altro che sì, luglio. Era primo luglio. Altro che puntata 51. Mi era stata richiesta proprio dal maestro qui accanto, che la schifa sempre, e invece mi diceva, ultimamente mi diceva sempre di parlare dei Fab Four. E quindi, che cosa è successo nel 2023 appena lasciato che può riguardare i Beatles? Ebbene, un'ultima canzone dei Beatles. Con una storia molto importante che adesso vi andrò a raccontare. Era il lontano 1994, ben 30 anni fa, quando ai tre Beatles rimasti si presentò l'occasione di far uscire altri loro pezzi grazie alla produzione della famosa Anthology. Chiesero Paul, George e Ringo a Yoko Ono se avesse dei brani inediti di John, e lei gliene consegnò tre. Due di loro uscirono rimaneggiati e riarrangiati nel 95, e questi due erano Free as a Bird e Real Love, mentre il terzo ha visto la luce proprio nell'anno che abbiamo appena salutato. È successo quello che accadeva spesso negli anni 70, 80 e 90, quando nelle scene del crimine, e qua c'ho un po' di crossover. Crimine. Quando nelle scene del crimine si congelavano campioni di sangue in vista di poterne finalmente analizzare il DNA quando se ne sarebbe avuta la tecnologia giusta. In quel momento, infatti, la traccia era talmente sporca da risultare inutilizzabile, e parlo della traccia audio, ovviamente. E così rinunciarono fino all'arrivo della tecnologia appunto giusta, ovvero l'intelligenza artificiale. Purtroppo a quel punto, proprio come nei delitti, alcuni familiari delle vittime non avrebbero potuto vedere la tanto agognata risoluzione del caso. E infatti George non riuscì mai a vedere la realizzazione di questo sogno, ovvero un'ultima canzone dei Beatles. Quasi un quarto di secolo dopo, grazie alla realizzazione di Get Back di Peter Jackson, venne utilizzata quella tecnologia tanto utile anche ai nostri laboratori, che permette di scomporre i vari brani in tutte tracce differenti riguardanti ogni strumento. E così fu finalmente consentito ai produttori di pulire separatamente la traccia di voce, ma soprattutto eliminare e pulire quella di piano, altamente compromessa. Una volta aggiunti basso, batteria e voce, finalmente rientrò in gioco il progetto del 95, che fu tanto importante proprio perché loro avevano intenzione di mettere su questo brano. E infatti George, grazie a quella speranza, registrò effettivamente un solo, mai utilizzato, che permise ai quattro di farsi ritrovare dal loro pubblico tutti insieme nel 2023. Stando alle parole di Paul stesso, l'enorme interesse che avevano i Fab Four per lo sviluppo e la sperimentazione delle nuove tecnologie la rende a tutti gli effetti una canzone dei Beatles, in barba a tutti quelli che dicono no, però vabbè, l'intelligenza artificiale non so veramente loro. Compresa te. No, no, di io... Di solito, cioè come ti avrei visto io, invece ti vedo... Beh, è una canzone dei Beatles, mi scusi, ma secondo lei come l'ho potuta prendere? Si indigna. Non lo so, sei purista. Sì, però sono sempre i Beatles, sono purista dei Beatles, come la Roma con Montella. Ah, esatto. Ok, grazie dell'esempio. Prego. Scusami. E niente, appunto, grazie all'enorme interesse che avevano i quattro per lo sviluppo e la sperimentazione delle nuove tecnologie, la rende a tutti gli effetti una canzone dei Beatles. E questa lungimiranza, proprio da parte loro, è ciò che li ha resi ciò che ho sempre sostenuto che fossero. Grazie a questo brano i Beatles sono ufficialmente e letteralmente immortali. Bella. Siamo tutti d'accordo? Bella. Stringato. Stringato. Ma che stringato? Ma hanno fatto una canzone nuova. Va bene. Quindi a questo punto io farei ascoltare a tutti quanti la meravigliosa Now and Then, che è il brano appena uscito dei Beatles. One, two, three. Centocelle Avengers su Radio Forte alle 17.54, quasi a metà di questa quotidiana avventura, entra in scivolata il nord del nerd. Maestro, mi manda la sigla? Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso Radio Forte Centocelle Avengers, è una rubrica adotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nord del Nerd! Nord del Nerd! Su Centocelle Avengers. Ora che cammini. Buonasera piccoli nerd. Ciao. Oui. Avete finito di vedere The Crown? Eccola. Se non sapete chi è il guardiano dei cigni e chi piega i tovaglioli della regina a cappello del vescovo, avete da fare per almeno una decina d'ore, ve lo dico, eh. Ma oggi, invece di parlarvi della consueta nerdata, volevo presentarvi una persona. Joe Hisaishi. Al secolo Mamoru Fujisawa è un compositore, pianista e regista giapponese. Si tratta del compositore ufficiale di tutti i film dello studio Ghibli. Le musiche che avete sentito sul castello di Howl, lo splendido La città incantata e il più recente Il ragazzo e l'airone sono proprio del nostro Joe. Prendo questo argomento perché in questi giorni si è verificato un evento unico nel suo genere, cioè la redazione si è riunita per andare al cinema, e questo è normale. Ma per antica e consolidata tradizione, ogni volta che riusciamo ad andare al cinema manca sempre un membro del team. Tanto che si era pensato di creare una rubrica sui cinema redazionali chiamandola Al cinema senza puntini puntini. Senza me. A cui sì, solitamente siete. A cui aggiungere via via il nome di chi mancava. Stavolta invece eravamo proprio tutti. Passerei però. Passente. Evento. La nostra Cristina D'Avena, Betta, te lo posso dire, scusami. Esatto. Passerei la palla a Fra per parlarne un pochino, visto che la qui presente non ci ha capito molto. Pure io. Esatto. E sono curiosa pure io di saperne di più. Fra, dici tu. Spiegacelo. Sto ragazzo. Molto brevemente. E diciamo, vabbè, mi sono visto il video di quello youtuber che ho passato pure a voi, che cito perché è giusto dirlo, è 151 Hang. Chiedo scusa. E allora, è un film pieno di, vabbè, allegorie, cose varie. Fondamentalmente trovarci un senso è molto complicato. Riassumendo molto brevemente, diciamo che il film è un po' una sorta di, chiamiamolo, testamento artistico di appunto del maestro, e la figura in particolare del Miyazaki, non del Miyazaki. Maestro Suano, ah, okay. Tutti hanno guardato lui. Suano. Ma il ragazzo, grazie, Franci, quando parlo del maestro, per me è solo il Suano e l'airone. Hai capito? Il Suano e l'airone. Oh, il ragazzo, no, il Suano e l'airone. Hai capito, papà? Il ragazzo, esatto. Quante ne ho fatte, vai. E quindi, vabbè, diciamo, il personaggio anziano che si vede nel film e il, diciamo, il ragazzo protagonista, diciamo, del film, appunto, il ragazzo, sono un po', cioè, chi ha pensato fossero appunto Miyazaki da giovane e Miyazaki da anziano, quindi tutto questo gioco che fa lui di tenere in equilibrio questo mondo complicato, un po' lui che si sforza di dire guardate cosa ho creato, provateci un po' voi, e questo è quanto. Quindi è un po' come il maestro Biascicone. Un po' come il maestro Biascicone, okay. Esatto. Grazie per la bellissima metafora. E poi tipo super velocemente ci sono delle cose tipo l'incendio e l'ospedale, era una cosa che lui aveva subito tipo visto da bambino e di cui era rimasto impressionato, quindi l'ha rimesso nel film. Poi c'era, vabbè, ovviamente la morte della madre e il padre che costruiva aerei, vabbè, insomma ci sono tanti anche elementi biografici della vita di Miyazaki e niente, questo. Ah, ecco perché sembrava un po' esoterico, diciamo, perché era un biografico. Sì, sì, c'è parecchie cose sue, diciamo, proprio della sua vita. Ah, wow, interessante. Questo è quanto. No, spero adesso che forse ci abbiamo capito qualcosa. Sì, spero che tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano visto Il ragazzo e l'airone, altrimenti spoiler. Forse lo dovevamo annunciare prima, questa cosa, ragazzi. Era un po' soft, scusate. Vabbè, diciamo che spoilerà sto film, raga, è un po' difficile, no, nel senso che è vero, ne stanno parlando tutti. Non abbiamo nemmeno detto parrocchetti. No, nel senso che non ha una vera e propria trama, quindi vabbè. Senti Gabri, ma in realtà ero solo io che mi aspettavo una trama e poi mi sono trovato spiazzato, ecco, diciamo, con gli incubi. Tutti voi lo sapevate che no, non eri l'unico, no. Sei stato l'unico. No, Gabri, guarda. Gabri, ma legalmente dopo quanto è spoiler? vogliamo saperlo. Subito. dopo una settimana. Subito. Libero subito. Libero subito. No, subito. Dopo subito 70 spoiler. Anni ne puoi parlare. A posto. Ah, ammazza, bene, ok. Ai ai ai. Non mi dite okay, il finale la... dell'host. Poi ci troveremo con... Il finale di Lost. Il Nord del Nerd chiude perché non può più parlare di nulla. E ci comunque, mancherebbe. Tornando al nostro Joe Hisaishi, oltre all'eterna amicizia con Miyazaki, occhio che interrogo mo, è noto per aver collaborato anche con un altro regista giapponese famosissimo, cioè Takeshi Kitano, molto famoso in Italia per Maestro... Oddio, io la sapevo, io la sapevo. So. Io la so. Vai, dai, dai. Nel titolo c'è anche lui in calcolare. Non è detto, dipende, perché se vedi la versione italiana titolo... no. Nella versione italiana no, né quella Maestro, giapponese ma ovviamente veramente. Sì. Mai dire. Sono... Mai dire? Mai dire? Banzai. Banzai. Oh, santa pace. Ah, certo. Avevamo paura di rispondere. Cioè. Sì, Takeshi Castle. Di... Takeshi Castle. Sì, il commento di Francesco infatti è perché Mai dire Banzai dell'89, pensa. Era una sorta di mischione in realtà da due programmi, Takeshi Castle e The Gamman. E penso sia una cosa unica al mondo prendere due programmi a caso di un altro paese e mischiarli come capita, addirittura rinominando le persone, perché magari voi non ve lo ricordate perché siete troppo giovani, però i conduttori veri giapponesi del programma che venivano mostrati a video chi stava a parlare? Nella versione Gennaro Olivieri, esatto, indovina chi era Gennaro Olivieri? Indovina un po'. Era Kitano e Guido Pancaldi, se non Guido sbaglio Pancaldi. E c'era Cippalippa, il generale Puzzestofen, Pocoto Pocoto. Cioè, diciamo che io ho sempre paura quando si tratta di Giappone Oriente a parlare con voi due, per cui paura di sbagliare, intendo, per quello poi non pensavo si tratta, ma non ha fatto pure nient'altro. Lo conosciamo per Mai dire Banzai. Aspetta, io quello solo una trentina di film. Aspetta che moriva al c'è botto. Qualche filmone oneone. Comunque, a proposito di Giappone, maestro, Hisaishi nacque a Nagano, che è noto per i fusilli. Secondo me la pasta alla carbonara. I fusilli alla naganese. Quella con la panna, sì. Bravo, perché era una domanda a trabacchetto, non lo so perché è famoso Nagano, magari fanno bene, non lo so, i fusilli. E comunque, ultimo momento di amore anni 90, giuro, c'è un'altra cosa che ha realizzato Joe che ci tocca in maniera particolare, ragazzi. È lì che volevo. Tenetevi forte, perché Joe ha realizzato la colonna sonora di Kiss Me Lisha. No. Wow. Cioè, raga, ve lo giuro, Baby I Love You è la sua. Cioè Mirko dei Beehive praticamente, mi stai dicendo? No, però alcune delle musiche della soundtrack di Kiss Me Lisha sono le sue, tra cui Baby I Love You. Stavamo per farle al saggio le sue musiche, capito, sì. Capito. Comunque, nostalgia anni 90 a parte, la musica di Joe Hisaishi per me è un vero e proprio tocco di magia. Influenzata dal J-pop, dalla musica elettronica e dalla New Age, mescola una serie di generi musicali che si erano diffusi in Giappone negli anni 70. Hisaishi ha creato nel corso degli anni uno stile davvero inconfondibile, sperimentando diversi generi che vediamo alla sua apoteosi proprio nei film dello studio Ghibli. Ogni film ha una sua vera e propria anima sonora, che non contrappunta necessariamente quello che accade in scena, per evitare quello che, un po' dispregiativamente, viene chiamato effetto Mickey Mousing. Come si face... e torna! Eh sì! Come si faceva nelle prime animazioni della Disney, dove la musica doveva effettivamente corrispondere a ogni movimento o azione che veniva svolta dai personaggi in scena. Quando Hisaishi, che bello stare alla console, posso farmi Dio... Ho fatto del mio meglio per trovare la metodologia più stimolante, facendo sì che le musiche non corrispondessero unicamente alle immagini o a ciò che pensavo fosse il contenuto psicologico della scena. Un processo di creazione quindi complesso, che a volte ha funzionato addirittura al contrario. Cito sempre Hisaishi, mentre spiega che Miyazaki, ancor prima della sceneggiatura, gli consegnava una sorta di storyboard molto semplice, presentandogli personaggi ed elementi della storia. Mi dà anche 10 parole chiave sulle quali costruisco il mio lavoro. Nel primo anno inizio a comporre la musica, che esce prima della realizzazione dell'opera stessa. Quest'album di immagini ha un duplice scopo: mi permette di immaginare come sarà la musica in seguito, ma fa anche sì che Miyazaki, durante il completamento dell'opera, possa farsi guidare dalla musica che successivamente diventerà fulcro della sua immaginazione. Un'amalgama quindi di processi creativi che coinvolge nel caso dello studio Ghibli anche gli esperti degli effetti sonori. Ho scoperto scrivendo questa puntata, regà, fa pure così, che il doppiaggio statunitense, per esempio, è molto diverso da quello giapponese. Tralascio volutamente quello italiano perché sennò dobbiamo cominciare a parlare dei cannarsi. No, te prego. Delle traduzioni fuori dal mondo, ogni volta durante il film stai lì. Esatto. Questa comunque non era malissimo, dai, ammettiamolo. Meno peggio delle altre. Esatto. Passavi meno tempo a dire... Cazzo ha detto? Però, insomma, aveva i suoi punti. Ma vabbè, comunque ogni paese ha i suoi problemi. Prendiamo ad esempio gli Stati Uniti. Confrontando le scene dei film in edizione Giappone e in edizione Stati Uniti, si nota come la musica sia molto più presente in questi ultimi. Nelle versioni originali, infatti, ci sono scene lunghe anche 7-8 minuti senza musica, dominate in una maniera meravigliosa dai suoni. Ieri vedevo una scena da Laputa il castello nel cielo, in cui viene mostrato il castello con una ripresa aerea. Nella versione giapponese non c'era musica. Si sentiva il vento fischiare all'interno del castello volante, il vociare delle persone combattere all'interno e una serie di suoni che facevano in modo che una semplice immagine in realtà statica ti dicesse molte più cose di quante non ne mostrasse. Nell'edizione statunitense, nella stessa scena, i suoni erano stati rimossi e sostituiti da una musica di sottofondo. Posso un appunto? Negli Stati Uniti hanno fatto anche la colonna sonora di Oppenheimer, che abbiamo visto in molti in questa redazione, e possiamo convenire che comunque manda la gente al manicomio sta roba, quindi tutta Madonna, la vita questa... è bellissima. Credo abbia vinto l'Oscar per la colonna però sonora. Io ho comunque del dolore ancora nelle orecchie. Capisci, ricordiamo... questa cosa, Virginia? La capisci? Io e Gabri dormivamo. Vabbè, ma lui anche è Viola. Così. E anche Manu. No, io non ho dormito a quello. No. Raga, io a Napoleon. No, ah, esatto, vabbè, quello, lasciamo, quello è un altro capitolo. Questa è la rubrica al cinema senza me. Allora, apriamo, tranquillo. No, quello è resistito, non so perché, forse era la condizione in testa, capito? Mi ha fatto rimanere... Mi piacerebbe tanto potervi far vedere questa cosa per farvi capire qual è la sensazione che mi ha dato vedere queste due scene, ma non potendo provo a farvele sentire, per farvi capire di che differenza sto parlando. Maestro, mi manda la versione originale giapponese, il contributo 1. No. Avete sentito il fischio del vento, i rumori di battaglia? Ecco, questa è la versione statunitense, contributo 2. Sì. Ma che mi stai a raccontare? C'è proprio un'altra cosa. Dico... Boh, bella la musica per carità, ma una scena completamente piallata rispetto alla prima. Sì. Fate una prova rivedendo i film in versione originale. Questo succede per via di una correzione di rotta che fu fatta in onore delle abitudini occidentali. E indovinate di chi? E ritorniamo alla Disney. Isaishi ebbe da discutere con lo staff della Disney a questo proposito, perché nel momento in cui loro dovevano distribuire Laputa, gli venne contestata la presenza della musica troppo rada. Non ne farà un musical. Esatto. Fateci caso, nei film Disney non c'è mai un singolo momento senza musica di sottofondo. Riguardate La Bella e la Bestia e dimmi che ne pensi. Ah, ma riguardiamoci gli Avengers invece. Dai. Lo staff della Disney fece presente ai Saishi che non erano accettabili più di 3 minuti di seguito senza musica. Così di fatto sto poveraccio fu costretto a realizzare 30 minuti in più di musica per la versione in inglese e il doppiaggio fu per certi versi stravolto. Paese che vai, usanze che trovi. Kamafa. Però se vi capita, ora che lo sapete, provate a vedere ancora una volta le versioni originali per immergervi ancora di più nel mondo dello studio Ghibli. Piccoli nerd, il nostro momento si conclude qui. Vi lascio con un pezzo bellissimo della colonna sonora del mio Ghibli preferito, La città incantata, Spirited Away, Jo Isaishi, One Summer Day. Thank you. E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, mentre cerco inutilmente all'ultimo secondo di fare ordine nel disordine delle nostre rubriche, mi rendo conto che è il momento mio, cioè il momento della fonia, della rubrica che racconta le disavventure dei fonici, che si chiama Traumi Fonici e che aveva una sigla, tanto tempo fa. Ma raccontiamo un po' quando com'è andata i fonici oggi, raccontavano i propri traumi, avevano una sigla e quindi sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo. Sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E a Traumi Fonici quest'oggi io vi potrei inondare, perché come abbiamo già detto è passato un sacco di tempo e quindi soprattutto è passato quella porzione più ghiotta, diciamo, dell'anno, durante la quale avvengono tante cose. E infatti, diciamo, per non perdere, cioè facendo quasi finta che siamo in onda appresso al primo di luglio, che è l'ultima che abbiamo fatto, cosa è successo dopo luglio? L'Umbria Jazz ormai l'abbiamo raccontato in lungo e in largo. C'è stato questo altro grande evento che al secondo anno che si ripresenta mi diventa un tormentone, mi diventa uno spauracchio dell'anno, e si chiama Arbatax. It's DJ time. Ok, no, questa era per darvi un'idea del fatto che non è esattamente un pranzo di gala, non è un diciamo una cosa leggera, soprattutto si svolge in località Rocce Rosse ad agosto, l'anno scorso era a Ferragosto, adesso era nel subito dopo Ferragosto, ma comunque mettete insieme le due cose e capite che è il classico esempio di quando questo lavoro ti costringe a non divertirti quando tutti gli altri invece sì. La località è, diciamo, da mille una notte, c'è questo mare della Sardegna bellissimo, c'è questo palco montato a ridosso del mare e tanto divertimento. Quest'anno era una missione, diciamo, quasi impossibile. E che cosa caratterizzava queste serate? Diciamo, io se avessi anche il contributo ovviamente sarebbe stato molto molto molto più bello, ma tant'è. E sta di fatto che avevamo serate del tipo di Fabri Fibra, Rosa Chemical e Dardust tutti nella stessa serata. E quindi, diciamo, dal punto di vista sempre dei tecnici che si lamentano, c'era di che lamentarsi, c'era di che vivere la giornata in maniera, perché comunque facevano 45 gradi e quindi qualsiasi cosa era molto dispendiosa. Però perché ve ne sto a parlare? Perché in effetti finiamo, fai quel mestiere lì, non è che mo l'estate che vuoi fa. Che cos'è che ha caratterizzato Arbatax? Una cosa positiva. Cioè, io in realtà vi parlo di un trauma fonico si risolve, mo è troppo, perché cioè, questa è una cosa da lettino della psicanalisi. Però diciamo che si contrappesa, si va a fare il contrappeso con quello che è ufficialmente stato classificato come il trauma fonico numero 2, non l'1, nella nostra discografia. E vabbè, lo metto così sottofondo, perché fondamentalmente poi questa è una cosa che potete trovare in podcast come questa puntata su Radio Forte e sul sito fortevenestino.net. Ma il primo trauma fonico probabilmente molti lo ricordano, nessuno. Riguardava Dave Lombardo, parliamone. Dave Lombardo, finalmente parliamo di questa cosa in maniera un po' più esplicita, perché ne abbiamo, ecco, sentite, qui c'è la scenetta, diciamo, che riassume quando al tempo ne parlavamo con Iron Man. Bei tempi, sì, lo so, tu, a quel tempo mi consolavi solo tu. Oggi mi rivolgo a tutta la redazione, rievocando la questione Pollicione. Allora, Dave Lombardo suonava al forte con i Suicidal Tendencies, grande evento, grande, cioè, diciamo, cosa assolutamente inedita. Serviva di fargli da fonico di palco. O faccio io. Ci stavano diverse discussioni. No, faccio io, è meglio. Cioè, diciamo, ci siamo anche a capire. Cioè, una giornata carica, veramente carica. Non era lo fai tu, no, tranquillo, fallo tu. Era un po' più competitiva. La cosa sta di fatto che finisco a farlo io e lo faccio male, diciamo, riassumo questa, cioè io mi vivo questa roba di diciamo andare a dormire con l'immagine di Dave Lombardo che mi guarda e con il pollice passa il pollice attorno a fare una semicirconferenza intorno alla carotide, segno che comunque non è come voi potreste pensare caput a voi e a tutte le vostre famiglie, ma cioè, nel gergo diciamo un po' più anglosassone americano è sostituite quel fonico che non c'è buono perché mi sta facendo un casino, sto a sbroccare, ecco, arriva Guido sul trauma fonico, arriva Guido. And George. Quindi io cioè, ho forse cominciato, grazie, è arrivato Guido, vi dico solo che è arrivato Guido. E ho cominciato questa rubrica Traumi Fonici tanto tempo fa proprio per togliermi in qualche maniera da addosso questa onta che ancora mi sento addosso se ne parlo. E non sta funzionando, cioè, dobbiamo andare avanti fino alla centesima di Traumi Fonici dove forse mi ritroverò un po' più libero da questa cosa. Sta di fatto che eventi come quello di Arbatax vanno a ribaltare la cosa, perché chi è che ha usato il pollice questa volta in su come se fossi Marco Losseo con le belve comodo. Chi è stato il mio comodo? Albertino, incredibile, di tutta la kermesse che si è esibita a Arbatax, quello che veramente mi ha guardato e mi ha fatto pollicione perché era contento, perché gli avevamo messo due frigoriferi di ascolto casse intorno per l'ascolto DJ, che lui non poteva effettivamente con la terra che gli tremava sotto i piedi dire che non sentisse. E quindi molta foto, soddisfazione, aveva diciamo 4 sub e tu da 18 altrettanto con il pollice in su, cioè hai dato la io, stessa risposta. Io sono molto emozionato, ma lì si è creata poi una situazione strana perché eravamo comunque con amici, anche Silvio Orco che saluto, e a un certo punto vedo Silvio che parlava con Albertino e praticamente ci hanno passato la serata, cioè, a un certo punto ho detto ma questo l'ha invitato, verrà a suonare probabilmente al Forte, no non è vero. No, è stato molto contento. Fatto, sì, sta di fatto che questa cosa chiude in bene la vicenda del trauma pollicione, fa il paio con Dave Lombardo. Capisco che Albertino e Dave Lombardo siano due personaggi leggermente distanti, ma diciamo poi come ma comunque tanta roba per chi sta comunque dietro alla console e gli basta un grazie per andare a casa contento, quindi figurate un pollicione. Niente, si chiude così bene questa rubrica a parte la musica Traumi Fonici, per riordinare le idee, perché avevo anche eccolo ce l'abbiamo, ho trovato la foto, la mando sul gruppo, ecco qui lo scorcio che si vedeva all'evento di DJ Albertino. È utile per la radio. Ah, sì, lo mando sul gruppo per i vedenti. E quindi sul nostro canale Telegram seguiteci, scusa Marco. Comunque vabbè, volevo dire che quando abbiamo chiesto se veniva a suonare ha detto va bene. Ok. Grande. E niente, si chiude quindi Traumi Fonici in qualche maniera con un applauso per il nostro maestro pollicione. con gioia dai, applauso Albertino, non si sente Albertino, avete spento gli applausi. Niente, questo perché è entrato Guido e anche Giorgi e quindi ci siamo un po' emozionati sul finale soprattutto. Ma noi ce l'avevamo qualcosa da mettere mo per spezzare. Guardi, è per questo che si fanno le scalette prima di è per questo che esiste Virgil. E la risposta è no. Possiamo mettere la sigla di Guido Cardi, in onore di Guido. Quindi volendo andiamo anche avanti. Andiamo avanti senza brano. Per me va bene così, almeno si stringe. Sì, sotto. E quindi tocca? Cosa c'era? Tu che sei detentrice del cartaceo. Cioè intanto possiamo cosa dare, c'era? C'ero prestare io. Un microfono a Guido. Questa era la parte degli ripeti, ospiti Guido, che non ti abbiamo sentito. Guarda caso. Mannaggia. Mi censurano, non mi tolgono il microfono, niente, nessun 48. Allora salutiamo l'intellettuale Guido che ha fatto irruzione negli studi perché di Radio Forte 100 Celle Avengers, non autorizzato, non invitato. E salutiamo tuttavia, anche. Tuttavia, io approfitterei a questo punto, visto che ci siamo impappinati sul musicale, però c'era un musicale che tu volevi. Lo so, è una cosa di quelle improvvisate, sono le migliori, Virgi, non mi guardare così. Adesso non mi guardare io così. Io chiedendo cosa volevo non di guardare così, non mi guardare così. Allora, facciamo una roba, facciamo. Aspetta, possiamo fare così? Niente, mentre Franci ha rotto la sedia. Si è rotta la radio. Ha rotto tutto. Ragazzi, non esistono più le mezze stagioni. No, se siamo infilati dentro un cavo, vabbè. Non vi preoccupate, non è successo niente. Guido, volevi dire qual era il mio musicale del cuore? Non ti permetteresti mai, poi dici che ti censura. Giorgio, vogliamo informazioni sul punto di rugiada oggi al forte. E Giorgio comincia a cercare. Ragazzi, ho triggerato. Vai Giorgio, se hai qualche informazione, dato perché del resto noi siamo chiusi qua, rintanati, non sappiamo che tempo. Vabbè, niente. Sì. Che tempi corrono? Che è diventata. Sei tornato, maestro. È diventata. Da meno 2,3 gradi. Grazie. Meno 2,3. No. Io comunque avevo messo questa base drammatica perché Guido doveva fare lo spot della palestra dedicato al corso di danza. È vero, io avevo detto. Scusate, che lo dovevo dire. Di Guido perché per i corsi di danza vieni, dei Guido, bambini. Vieni Guido, devi improvvisare. E quanti ne vuoi, ovviamente, in questo caso? Devi dire un qualcosa, non ti preoccupare, poi la tagliamo. Senza censura. Palestra del. Capito? Tanz. No, di più. Palestra del Forte Prenestino. La Palestra del Forte Prenestino è lieta di presentare il nuovo corso di danza. Due. Mi sa che non si è sentito, Guido. Sono due corsi di danza, non uno, ben due. Due al prezzo di uno, perché due è meglio di uno. No, il corso vero, gli pagate tutti e due. Non l'hai studiato. Ma vabbè, ho sbagliato io, non mi devo fidare. Ma una frase tipo la danza è meglio della paranza, cioè non lo so, una cosa non la potevi dire, Guido. Vabbè, portatelo via, grazie. Basta. Ho sbagliato io, scusatemi, non avrei mai dovuto fidarmi, mi sono fidato anche io come al solito di questo di questo cialtrone, questo intellettuale da strapazzo. Vabbè. Dai. Grazie Guido, per favore, i ragazzi lo possono accompagnare, grazie, un sottofondo adeguato. Che Musashi attacca. No, che si sente carino. Effettivamente. No, non dire così. Ma Guido non può più lasciare gli studi. Vabbè. Sì, perché c'è al piano di sotto c'è il mio feroce mastino da guerra. È un mostro proprio cattivissimo. È tutto nero. Bene, e possiamo andare avanti allora? Quindi mi sa che tocca a te, cara la mia. Tocca a me con una rubrica. Paleontologa, no. Sì, grazie, sarebbe bellissimo. Oh. Tocca a me con una rubrica che, diciamo, era appena nata quando abbiamo salutato la radio per questi mesi. E la rubrica si chiama Quando si svegliò il dinosauro era ancora lì e parla appunto di paleontologia. Sigla! Professor Grant, mia cara professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park. Te vengono e basta Virgi, ma vedi, dannartene, affa, funziona sempre Anita. E beh, sì Anita ovunque la metti è perfetta. Allora, oggi vi racconterò di un dinosauro che si chiama Crilofosauro. Sei tornato, sì. Grande. Sui dinosauri mi interrompo. Colpa di Betta. Nessuno, veramente zero rispetto. Perdona. Crilofosauro, il cui nome significa lucertola dalla cresta ghiacciata. È un genere estinto di dinosauro teropode, vissuto nel Giurassico inferiore e soprattutto vissuto in Antartide, che all'epoca si trovava alla latitudine dell'odierno Sudafrica. Era uno dei più grandi teropodi del suo tempo, senza contare che l'unico fossile noto appartiene a un individuo giovane, ancora in fase di crescita. Gli unici resti sono un teschio parziale, un femore e poco altro. La caratteristica più evidente è l'insolita cresta ossea sul capo, dalla forma arricciata in avanti. Sulla base delle prove di specie affini e studi sulla consistenza ossea, si pensa che questa bizzarra cresta fosse utilizzata principalmente come segnale di riconoscimento tra esemplari della stessa specie. Crillofosauro, appunto, era un teropode grande e ben costituito, uno dei più grandi del suo tempo. Era infatti noto come il super predatore dell'Antartide nel periodo del Giurassico. Il corpo dell'animale aveva proporzioni slanciate ed era stimato di circa 6-7 metri. La scanalatura di questa cresta la rendeva molto simile ad un ciuffo. E qui arriviamo a perché noi parliamo di paleontologia. Perché noi parliamo di paleontologia e musica. La scanalatura la rendeva di questa cresta la rendeva molto simile ad un ciuffo, ricordando addirittura la pettinatura di un noto cantante degli anni 50-60. Che dai, chi è che c'aveva il ciuffo? Mirko dei Beehive. No, no, no, no. Elvis. Ottimo, Viola, grazie, applauso. Ed è per questo motivo che parliamo oggi di questo dinosauro, noto non solo come Crilofosauro, ma anche come Elvisauro. Le pelvis. Esatto. Solitamente i teropodi posseggono queste creste che corrono lungo tutto il cranio. La cresta sarebbe stata inefficace come arma, ma avrebbe avuto un importante ruolo come segnale di visualizzazione durante certi tipi di comportamento sociale, come l'accoppiamento. Si può quindi ipotizzare che in vita la cresta fosse sgargiante e colorata per attirare il sesso opposto. Insomma, proprio come Elvis. Maestro? Mandiamo un brano di Elvis che è You're the Devil in Disguise. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Aria, il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 Celle Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Radio Forte 100 Celle Avengers, mettiamo noi soltanto questa cosa per sottolineare che in questo momento, quando meno ce l'aspettavamo, anzi no, ce l'aspettavamo ma era un po' in ritardo, è comparsa la nostra esperta di astri alle spalle e quindi una delle sigle più riuscite del 2023 sta scorrendo. Il bello è che lei non ha una cuffia e quindi non può godere di questo momento. Però diciamo è tipo un'entrata di quelle. Poi ci saranno i fumogeni, e qui con noi, cose. Julie! The Astrologa! però dobbiamo censurare come Guido praticamente. Sì, no? praticamente Guido se n'è andato e sono arrivati. Portatela via. Ma salutiamo anche Roman. Benvenuti ragazzi. Chi è che abbassa questi tastini? È tutta colpa di Betta. Aiuto, cosa sta succedendo oggi? Non è vero, però Betta ieri me l'avete traumatizzata, quindi oggi è... No, l'alcol. È colpa mia, è stata colpa mia. È arrivata già bevuta. Cerchiamo scuse. È colpa di Giulì. Ma in realtà in questo momento ci rivolgiamo dietro di noi, praticamente, sempre nelle retrovie, dove The Beautiful Mind adesso prenderà la parola e ci confonderà, come spesso accade. L'ora di matematica. Siamo pronti. Ma non lo facciamo apposta. Comunque. Vai, l'ora. Ti vogliamo bene lo stesso. Anche perché, esatto, è anche il maglione giusto, nessuno. Infatti. Esatto. Il maglione di redazione. Ho paura di sbagliare la sigla, lo sai. È l'ora della matematica. È passato un po' di tempo. Ma perché si chiama sigla fra? Perché gliel'ho... Era fatta Virginia, di Virginia. Ho capito. Perché siamo autoreferenziali. Beh, ma io l'ho mandata a lui, non pensavo che... Allora, no, siete pronti? Speriamo bene. Allora, oggi parleremo, indovinate un po', dei Van der Graaf Generator. E perché vi chiederete proprio i Van der Graaf Generator? Scopriamolo. Sigla. Scopriamolo insieme. È quella giusta? No. Quella è come no? Vero. È quella lunga. Nel quindi corso metto della quest'altra. Nostra esistenza, sì, è quella breve. Questa mi sembra più familiare. A descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, interessa. E allora, se vi interessa, e ci spieghi, buon Hilbert a tutti. Buon Hilbert a lei, tutti. Allora, parto a bomba, perché parliamo... anche a bomba. Anche il sottofondo è partito a bomba. Sottofondo di Lupin. Come sexy di Lupin, infatti. Sì. Allora, parleremo dei Van der Graaf Generator... Perché? Anche cartoni la sta sotto a Lupin che non avete idea. No, vabbè, è un oggi personaggio sexy, vabbè. Già potevamo fare oggi. No, vabbè, scusate. Sono un po' suscettibile. Prego, anche cartoni. Va bene, io mo sto a rivedere adesso Lupin. Saluto. Allora, parleremo dei Van der Graaf Generator perché, pensate un po', diciamo, due dei loro componenti, Chris Smith e Peter Hemming, erano dei grandi appassionati di matematica. Per chi non lo sapesse, la band è un trio di progressive rock, appunto formato da Chris Smith alla batteria, Nick Perna alle tastiere e Peter Emil alla voce e chitarra. Proprio quest'ultimo in particolare era quello più, diciamo, appassionato verso le discipline scientifiche, aveva degli ottimi voti in matematica durante il liceo e poi a Manchester successivamente si era immatricolato al corso di Liberal Studies in Science. Ma ovviamente non è per questo motivo che vi sto parlando dei Van der Graaf Generator. Il motivo vero è che hanno scritto una canzone sulla formula matematica più bella del mondo. E ovviamente poi vi spiegherò alla fine perché lo è. La canzone in questione si chiama per l'appunto Mathematics ed è contenuta nell'album A Grounding in Numbers. Tra l'altro, la data di pubblicazione di questo album è il 14 marzo 2011, che è... compleanno di Gabby. No, non è vero. Il 14 marzo di ogni anno è il giorno del pi greco. Il giorno del pi greco. C'è una cosa sulla matematica. Date una coppa a questa donna. Come il 4 maggio è il... Oddio, perché il 3-14 ci sono arrivato adesso. Il 4 maggio è? Questo lo devi sapere, o dovete sapere voi due lì in fondo. Il 4 maggio che cos'è? Sì, May the 4th be with you. Quindi Star Wars Day, bene, ok. Quindi ma il pi greco day è più importante. Greco day, scusami. Vabbè, se permettete, cioè, quest'altro è un po' più da così. Va bene, era più nerdone. Va bene, no. Ma qual è questa famosa formula più bella del mondo? È la formula di Eulero, che diciamo mette in relazione i cinque numeri più importanti della matematica, e cioè E, il numero di Nepero, l'unità immaginaria I, pi greco per l'appunto 1 e 0. Tale formula recita così: e elevato alla pi greco più 1 è uguale a 0. Ma adesso perché sta formula è così importante? Allora, innanzitutto per il motivo che ho detto prima, perché sono 5 numeri importantissimi, ma non solo. L'altro motivo fondamentale è che mette in relazione anche diverse discipline della matematica come algebra, geometria e analisi. Ma andiamo un po' più nel dettaglio. Allora, il primo termine di questa formula è E, cioè il numero di Nepero. E tale numero è il risultato di un'operazione particolare della matematica che si chiama limite. Allora, lo spiego un po' per sommi capi che cos'è. In tale operazione, diciamo, ci sono dei coefficienti che diventano sempre più grandi, e in matematichese si dice che tendono a infinito. Diciamo, questo fa sì che il risultato di questa operazione, al tendere dei coefficienti verso infinito, sia proprio E, che è appunto il numero di Nepero. E ovviamente non sto qui a spiegare come viene fatta questa operazione. Come? Volete saperlo? No. Veramente? Vi dirò però che, diciamo, in particolare è un numero trascendente. Che cosa vuol dire un numero trascendente? Vuol dire che non può essere, attenzione, seguitemi, soluzione di un'equazione con coefficienti razionali, ed appartiene, diciamo, sostanzialmente ad un'elite di numeri razionali, cioè numeri non ottenibili come rapporto tra due numeri interi. Allora, no panic, mo vi spiego e faccio tutto l'esempione. Allora, te non fa tutto chiaro, esatto. Perché, allora, non aiuti. Allora, prendete l'equazione, quella che avete fatto tutti quanti nella vostra vita liceale, x quadro meno 2 uguale a 0. Questa, e fino a qui. Questa equazione no. Ha due soluzioni, più o meno radice di 2, ok? Perché? Va bene? Ci siete? Sì, state seguendo? Sì, sì, sì. Sì, dai, che Daniele mi sta a seguire. Ok. Allora, la radice di 2 è un numero irrazionale. Non vi sto a dimostrare perché, ma affidatevi. È un numero irrazionale. Vuol dire che non troverete due numeri che divisi mi daranno radice di 2. Ok? Che cosa succede però? Okay. Radice di 2 non è un numero trascendente perché appunto è soluzione dell'equazione che ho detto prima. Per E invece non esiste nessuna di queste equazioni per la quale può essere soluzione, quindi è un numero trascendente. Questo vuol dire essere un numero trascendente, semplicemente. Devo mandare l'applauso? No, non lo so. Non ho capito. Non ho capito se è una cosa buona o una cosa Poi, se vi va, con i vostri amici o con i vostri nemici, se volete torturarli, o con me, potete fare il seguente gioco, che io volevo fare qua in diretta, ma se no ci mettevamo 10 anni. Vai. Allora, se prendete una calcolatrice e scrivete il vostro numero di cellulare, ne fate l'inverso, cioè fate 1 diviso il vostro numero di cellulare, e poi a quello che viene gli sommate 1. Quello che viene alla fine lo elevate tutto al vostro numero di cellulare. Vi accorgerete che i risultati che vengono tra le varie persone sono molto simili. Cambieranno solo alcuni numeri verso la fine, proprio per l'appunto per la proprietà di limite che del numero di Nepero. Cioè, quando tu inserisci dei numeri grandi, facendo questo tipo di operazione si ottengono dei risultati molto simili per numeri grandi diversi. Come appunto... Io ho una domanda. Io avevo capito un'altra cosa, però ve la dico. Vabbè. Perché numeri a una M sola? Perché ho fatto l'upgrade dal 2024. Infatti, veramente non sì. Io sono... ma posso dire che avevo capito io. Mi sento a mio agio. Posso dire io che avevo capito. Se proprio. No, che cioè scrivendo i numeri, vabbè, diviso vabbè, sì. Il tuo numero di cellulare. Sì. E tipo capovolgendolo, vi ricordate quando si scriva scrivevamo sesso, solo lei. Che cosa scrivevamo? Che poi giravamo e c'era una scritta sesso. E questa è la parte matematica che piace lunga. A Francesco. Solo lei. Era una cosa più. Ho studiato matematica solo per un momento questo. Ho potuto pensare. Scusami, Francesco. Cioè, io lo devo dire, però. Ma parliamo delle calcolatrici. Allora. Attenzione, è arrivata negli Manu. Negli anni 90. No, pure. Vabbè, abbiamo perso la nostra, cioè, la nostra udente. Numero uno. Numero uno è qui. Un consolo tipo porta a porta, che qua la gente arriva... Ragazzi, ma quanti no, ospiti? No, ma erano tutte persone invitate. Casa Vianello. E allora, poi andando avanti c'è il pi greco. Vabbè, sul pi greco mi soffermo poco perché insomma penso che lo conosciate ma certo. Tutti abbastanza. Dico solo che anch'esso, guarda un caso, è un numero trascendente e si ottiene come rapporto tra la circonferenza e il diametro. Ciao Manu. Ti sarebbe piaciuta questa spiegazione di matematica, ma 0 e 1, vabbè, anche su di loro dico poco, anche se in realtà ci sarebbe molto da dire su 0 e 1, ma no. Insomma, sono numeri ben noti a tutti. Ah. Allora, che cos'è invece? Era stato bravo. Cosa? Che cos'è invece I? I si chiama unità immaginaria, forse il numero più strano che non so, tutti lo conoscono. E diciamo è nato per risolvere una classe particolare di equazioni che non hanno soluzioni reali. Ad esempio x quadro più 1 uguale a 0. Questa non ha soluzioni reali perché non c'è nessun numero che elevato al quadrato mi dà un numero negativo. Ora sei in ansia, vero? Non so se è chiaro questa cosa. Penso a Daniele. Assolutamente. Io ancora sto aspettando il momento in cui capiamo perché è bella. Perché hai detto che era una formula bella, oltre che... bella, adesso ci arrivo, ci arrivo. Scusa. Allora, diciamo, tale unità immaginaria ha fatto nascere una nuova classe di numeri, che sono i cosiddetti numeri complessi, che a differenza dei numeri reali hanno due componenti e possono essere pertanto rappresentati in un piano. Quindi questo spiega il motivo per cui la formula di Eulero è una formula interdisciplinare. Il numero E afferisce sicuramente all'ambito dell'analisi matematica, pi greco a quello della geometria, 0 e 1 a quello dell'algebra, I invece possiamo pensarlo a cavallo tra analisi e geometria. Tutta sta roba fa la matematica. Ovviamente. A voglia. Ovviamente, anche Madonna. Di più. Queste sono le basi. Ovviamente non vi sto a dimostrare la formula di Eulero, credeteci, è corretta. Però posso dirvi perché è considerata la formula matematica più bella del mondo. Allora, e qua diciamo, che senso ha parlare di bellezza in matematica? Ma eccoci. Esatto. È stato scientificamente provato tramite sofisticate tecniche di neuroimaging che quando un matematico contempla un'equazione ritenuta bella, il suo cervello reagisce nello stesso modo in cui la mente di una persona sensibile all'arte risponde alla visione di un'opera di Michelangelo o all'ascolto di Mozart. Prego, il contributo. Lo posso capire. Io... Parte un contributo, dovresti forse avere un contributo. Allora io vi dico intanto che il nostro Francesco indicava al maestro di mandare il contributo 2 ore fa. Sbracciandosi malamente. Che cos'è? Mozart. Quello ucciso da Monte. Esatto, Jack. Le piace la musica classica? Non lo so, ma credo che mi piacerà. E chi mi riconosce il film Birra Pagata, però vediamo cosa c'è. La Ushuaia nazionale La Bella e la Bestia in Last Action Hero quando già. Allora, torniamo quindi nell'ambito della ricerca condotta dall'University College di Londra, è stato chiesto a 16 matematici di valutare 60 equazioni utilizzando una scala di giudizi da orribile a bella. I ricercatori hanno rilevato che quanto più il giudizio di bellezza di una formula era vicino al valore massimo, tanto più risultava intensa l'attività di un'area cerebrale chiamata campo A1 della corteccia orbitofrontale mediale. Precedenti studi avevano correlato questa stessa zona del cervello alle risposte emotive provocate dalla bellezza visiva e musicale. La ricerca ha comunque individuato due caratteristiche fondamentali che un enunciato matematico deve possedere per essere definito bello. Essere un risultato inaspettato e sorprendente come prima cosa, e come seconda contenere un'argomentazione complessa e intricata in cui elementi logici si incastrino perfettamente tra di loro creando in definitiva un'immagine di eleganza e semplicità. E secondo voi quale delle 60 formule proposte ha ottenuto i voti più alti? Questa qua. Esattamente. Ho una domanda però. Esatto. Ma ho una domanda. Ma nella scienza c'è spazio davvero per la bellezza? Certo, la scienza è quella... bellezza, Virgil. Tu che sei un appassionato di dinosauri lo dovresti sapere questa cosa. Sì, però certo. Lì entra in gioco poi la soggettività, capito? Sì. Ma questo è il quesito. Ma la scienza non è soggettiva. Sì, però... E quindi la bellezza è oggettiva? Beh, però puoi rimanere affascinato. Si rimane affascinato anche certo, da un certo tipo di oggettività. Qua ci vuole Guido, secondo portatela me. Portatela via. Se stai a mettere in difficoltà il maestro qui. In realtà ti potrei dire che tutto è oggettivo, cioè in realtà vabbè, però è un discorso lungo e complicato, lo faremo in un'altra sede, però vabbè. Quindi vabbè, concludo dicendo che la formula di Eulero è la formula più bella della matematica, questo è quanto hanno deliberato 60 bellissimo. Matematici. 60 milioni di 60 milioni, no, un po' troppo. Tutta Italia di matematica. Grazie Franci, grazie. Bene, e sarebbe stato bello passare proprio il pezzo di Van der Graaf Generator, ma raga, era una pezza clamorosa, pesante, veramente pesante. Vale. E ci abbiamo tempo per un pezzo. C'è ancora qualcosina. Allora, vabbè, intanto casomai te lo sfumiamo. Al limite, no, vabbè, lo canno e lascio. Ma come lo canni? Vabbè, no, è un pezzo dei Savage, perché ultimamente mi ha ripresa la scimmia. Ricordati, dobbiamo andare a fumare. Ok. E allora vi lascio con Savage, If I Go Away, da Streets a Rock Opera. Tutta per voi. Radio Forte 100, c'è le Avengers a schiaffo, entra Betta. Dio, che ansia. E quando manca poco alla fine di questa incredibile puntata, per via dei tagli che questo governo ha operato nel settore cultura, la professoressa maestra Viola è costretta a stringare la sua rubrica. Sarò passiamo la parola a lei, celere, che si lancia. E sigla. Lasciatemi leggere, sentire questa poesia. Vorrei, e non so leggere, ho voglia di sentire questa poesia. Buonasera a tutti e ritorno anche io oggi insieme alla redazione e porto il mio contributo. E allora, il titolo della rubrica però va detto. Sì, certo, no, vabbè, mi sono distratta, scusate, perché mi avete fatto capito, avete un po' di prescia, come si dice? Certo. Vabbè, comunque, Music and Poetry e la poesia, cioè la rubrica, e grazie. Sono un po' emozionata, ragazzi, perché mi sento in una posizione un po', vabbè, non lo so, particolare. Comunque, sono contenta, infatti volevo dire che ringrazio la poesia. Oggi ancora e sempre, diciamo, lo farò, perché permette di parlare, ecco, di argomenti comunque molto, molto difficili per la nostra civiltà, diciamo, per noi esseri viventi in questo momento. E infatti voglio appunto dire che esprimersi a parole davanti all'abuso, alla violenza e alla morte non è semplice, ma è proprio attraverso le parole che l'uomo ha imparato a conoscere se stesso e il mondo, dando voce ai propri pensieri e alle proprie emozioni. E quindi l'arte e la poesia possiedono questo potere appunto catartico e violento di farci vedere il mondo con gli occhi degli altri e di farci sentire il gusto, il profumo e il rumore di altri luoghi e tempi, di restituirci il dolore, la rabbia, l'amore di chi scrive. E in particolare appunto oggi parlerò della poesia e della letteratura palestinese, da appunto passando, possiamo citare autori più classici e conosciuti come Mahmoud Darwish, a giovani poetesse e ribelli come Darin Tatur, hanno continuato nei decenni a dare voce al popolo palestinese nonostante la guerra e la censura, parlando al mondo intero di cultura, di lotta e di libertà. E ho scelto una poesia di Sami Al-Kazim, che è intitolata Un tè alla menta, e datata 1968. Allora, fino a quando avrò pochi palmi della mia terra, fino a quando avrò un ulivo, un limone, un pozzo, un alberello di cactus, fino a quando avrò un ricordo, una piccola biblioteca, la foto di un nonno defunto, un muro, fino a quando nel mio paese ci saranno parole arabe e canti popolari, fino a quando ci saranno un manoscritto di poesie, racconti di Antar al-Basi e di guerre in terra romana e persiana, fino a quando avrò i miei occhi, le mie labbra, le mie mani, fino a quando avrò la mia anima, la dichiarerò in faccia ai nemici, la dichiarerò una guerra terribile in nome degli spiriti liberi, operai, studenti, poeti, la dichiarerò e che si sazino del pane della vergogna i vili e i nemici del sole. Ho ancora la mia anima, mi rimarrà la mia anima, rimarranno le mie parole, pane e arma nelle mie mani ribelli. Ma come fa? E questo è il mio contributo di oggi. Sintetico, ma spero, ecco, ma molto, efficace. Molto incisivo. Sì. È un onore per me poterne parlare così, attraverso, appunto, come ho detto all'inizio, attraverso la poesia, di questo argomento molto caldo e duro. Brava Viola, grazie. Grazie a voi, ragazzi. E grazie grazie a te Viola per averci dato dopo tanta facezia il momento a tradimento. Allora, la poesia si prende delle licenze e diciamo di solito nei testi, però io proprio vado oltre, capito? Mi prendo proprio la licenza nella rubrica e così, papà. Nel 2024, vabbè, chissà che 100 Celle Avengers non diventi anche una trasmissione profonda. Ma perché no, alla fine lo siamo già, cioè, avrei voluto tanto la musica tipo della città incantata, della colonna che ha messo Betta, per esempio, là sotto. Sarebbe stata benissimo. Sicuramente una volta era una radio partecipata questa, perché io, cioè, mi manca una presenza qua. Ma sì, sì, sì, finale, sì, non è vero. Comunque capito... continuano le... Manca qualcuno. Continuano ma le sessioni. No, cioè, nel mentre senso... arriva Virginia, ho visto è una giornata, una giornata particolare. Una giornata... Ecco, adesso si scapizza, guarda se non ci casca sulle scale. Si moltiplicano gli arrivi, sì, qui a, esatto, alla esatto. redazione di 100 Celle Avengers. Ovviamente voi non potete vedere, quindi quando sentite l'audio, diciamo, un po' smorto, un po' ma che stanno a fare? Che sta succedendo? Cioè, che parlano e non parlano? È perché nel frattempo c'è un porto di mare e Virginia, che di solito mette ordine, e non c'era. Oh, e quindi non abbiamo la capa si sono creati dei disservizi. Come disservizi? Abbiamo fatto Music and Poetry mentre ero giù? Assolutamente sì. E allora, maestro, è stato anche un momento molto intenso. Scusatemi, me lo risentirò in podcast. E dici bene, cara Virginia, perché tutta la puntata la potrete riascoltare in podcast. Volge al termine questa prima puntata di 100 Celle Avengers. È stato bellissimo tornare. Addirittura, mo, no, cioè, no, mo è troppo. Ancora, cioè, ancora cioè, c'è. No, stiamo sta ancora per volgere al termine. Sono pochi infatti, minuti ancora. Cioè, due spicci ce l'abbiamo. Ma posso fare, posso fare la mia marchetta quotidiana? Ah, è vero. Posso fare, posso fare. Abbiamo un autore che ha portato molto il libro. Velocemente, perché abbiamo un contributo da mandare. Ma il 14 febbraio, dopo che è il mercoledì delle ceneri, in un giorno di astinenza, ma è anche San Valentino, è San Valentino, quindi come si fa a conciliare le due cose? Venite qui al Forte, al pub, sì, alla Love Bot Cartoon, perché suoneranno i Rock Cartoons. Evviva! Evviva! Evviva Rock Cartoon! E a proposito di suonare, io vado adesso parlerei del, no, dei due nostri laboratori che quest'anno si sono divisi in... così a gamba tesa, no, sì. No, perché... in realtà ci siamo uniti nel nome. Ah, ci siamo, siamo uniti perché nessuno ha capito come si chiamava il proprio gruppo, quindi ognuno... Uniti nei reumatismi. Ci siamo scambiati più che altro i nomi. Un comunque, distrutto. Dopo i sumeri babilonesi, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco... I Hype, Gemelli, Holograms, che cosa potevamo inventarci se non un semplice ritorno alla semplicità, appunto. Perché abbiamo perso la quota 20, siamo tutti sulla quota 30, 30, 40, 50, 60. Stiamo praticamente andando alla deriva. Quest'anno ci chiamiamo gli Opla e gli Oissa. Grazie. Io ancora non ho capito chi è Opla e Oissa. Esatto, perché siete dei disertori. Questo è stato il primo momento di smarrimento. Sta di fatto che Opla e Oissa vogliono identificare, come ogni anno, due, cioè una spaccatura, una dicotomia, un grande mare che si apre in due, e chi sta di qua sta di qua, chi sta di là sta di là. Non è vero, cioè, ironicamente prendiamo questa cosa come una competizione, ma in realtà noi ci vogliamo bene e abbiamo solo bisogno di fare lezioni in due classi, perché siamo diventati tanti e questo e quindi il COVID, ci porta a avere due maestri, doppio manager, doppio camerino, doppio ufficio stampa e tutto doppio, e quindi ci diamo dei nomi doppi, cioè prima anche più carini, adesso Opla e Oissa. Appunto, io ho voluto comunque vederci un sacco di diciamo di filosofia di vita, dove nessuna delle due è prevalente, diciamo è meglio dell'altra, sono proprio due modi di affrontare le cose, e quindi cioè, questo non c'entra col fatto che io poi insegni a uno dei due gruppi, è stato assolutamente casuale, e forza Oissa. L'altro c'è il maestro Antonio, sono solo io degli Oissa qui, ma non maestro Alessio. Sta di fatto che le vicende di questa bellissima compagine verranno seguite nel tempo, in quello che è il percorso che porta al saggio di metà anno del 20 febbraio, segnatevi questa data, martedì 20 febbraio, e le avventure saranno seguite ovviamente da C1P8 Virginia Blooper. Giusto, mandatemi scusatemi, lo annuncio. Prego. A tutti i partecipanti del laboratorio, mandatemi le vostre registrazioni che poi ci facciamo qualcosa noi, ecco. E sovente introdotte queste cose da una sigla che oggi era pronta, e quindi, non assumendomene più le responsabilità perché sono andata a deriva, vi faccio sentire. Vedi, il mondo si divide in due categorie. Oh, te so qual è il mio posto. E siamo contenti. È una sigla felicissima, felicione, proprio felice, felice. Beh. Siamo contenti per chi ha capito qual è il suo posto fra io e Issa e io. Che bello. Comunque è giunto il momento, anche un po' in ritardo, ma che ci frega, la prima dell'anno, di salutarci, darci appuntamento sicuro, sicuro. Ok, cioè, proprio, lo vuoi dire? No. No, nel senso ufficialmente, fra due settimane. Poi l'ultima volta che ho detto fra due settimane sono passati sicuramente sei mesi. Sabato. Sicuramente di sabato. Ma nel frattempo Gabri no, potrebbe avere anche quindi potrebbe chi lo sa, seguiremo anche le vicende di Filippo in arte fagiolino, col sentimento rivolto a lui. Io vi saluto e vi dico vi voglio bene. E vi ricordo che questa puntata è in podcast sul sito forteprenestino.net/radioforte e con un po' di annaspo cerco la sigla. Aspetta che arriva. Intanto facciamo un saluto lungo mentre arriva la sigla. Ciao! Ciao!